Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave. Un avvenimento straordinario stasera. Un avvenimento straordinario. Abbiamo Little Gerard Hare qui davanti a noi. Un mito per me, un mito di una certa età. Io che ho una certa età, un mito di una generazione. Buonasera Little Gerard, hai fatto un buon viaggio? Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Sì, sì, sì, benissimo. È sempre un piacere tornare in Italia. In Italia. Dopo, dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo, sì. Esattamente. L'Italia cosa ti ha dato nel corso degli anni? Mi ha dato delle grandi emozioni e grande soddisfazione. Anche, voilà, ho avuto un sogno di un musicista e che suona con un complesso. È stato un grande sogno durato un po' di tempo. Sì, ma da piccolo era un sogno. Ho iniziato la musica, la passione e l'amore della musica ce l'avevo nel sangue, penso, da piccolo. E da quando avevo, non so, verso 10 anni sono caduto. Ma come mai ti sei innamorato del basso? In un certo momento della tua carriera ti sei innamorato del basso? Perché io suonavo la chitarra, prima ho imparato a suonare la chitarra classica, sì. Poi un po' elettrica, avevo non so, 12 anni magari, più o meno, e verso 14-15 io cantavo anche con un coro in Francia. In Francia, chiaramente. Si chiama Les Petits Chanteurs de l'Île de France. E esiste ancora questo coro adesso? Esiste ancora, sì, sì, sì. E... E voilà, e suonavo la chitarra e mi piaceva da morire già, e quando ho sentito, direi, il mio primo maestro e quello che mi ha dato voglia di provare, di suonare il basso, era Paul McCartney, quando ho sentito i Beatles. Ma sei stato a Londra per quello anche, forse? No, non è per quello? Sono andato a Londra, in Inghilterra, spesso da piccolo, da anche per quello che... Sono bilingue. Ah, ho capito. Sì. Voilà, per me l'inglese è come una seconda lingua. Lingua, certo. Anche l'italiano, però. Sì, anche spesso prima del francese. Ma sei bravissimo anche in italiano, in ogni caso. Sei bravissimo anche in italiano. In ogni caso. Grazie. Ma ho imparato in tour. Io non parlavo italiano prima, certo, di venire con i Rockets. Per la prima volta e poi da 10 anni ho una compagna che ho conosciuto in Francia, che vive in Francia ma che è d'origine italiana e che è qui vicino, e ecco, che è qua vicino a me, Federica. Perfetto, benissimo. Voilà, che magari mi aiuterà quando ho qualche buchi o sì, in italiano fa la traduzione praticamente. Certe cose sono delicate per me di spiegare bene il mio pensiero, il fondo, quello che penso, che sento al fondo di me, cioè, è un po' delicato ogni tanto. Dunque lei è qua con me e mi... ma i concetti che hai spiegato in pochissimi secondi sono stati chiarissimi, quindi very well, secondo me. Quindi hai cominciato a suonare il basso è stato lo strumento tuo più importante, fondamentale. Sì, sicuramente sì. Poi fisicamente anche mi sentivo al mio agio con un basso tra le mani, certo. C'è un rapporto con lo strumento fisico, ma non sei mancino, non sei mancino come Paul McCartney. No. Non sono Paul McCartney. Cosa vuol dire? Assolutamente niente, non sei mancino, basta, chiuso. Poi il suono, sai, queste vibrazioni delle frequenze basse che mi piacciono molto, che ti fanno delle sensazioni, direi, un strumento per me il più sensuale da suonare. Io ricordo... Stavo per dire erotico, ma sì, è un po', sì. No? Sono sì. 22, no. Sensuale. Sì, hai ragione. Io ricordo il bassista degli Hooty. John Entwistle. Era favoloso. Statico, però aveva una capacità straordinaria. Oui, come Bill Wyman, come, Stone, esattamente. Un altro tipo di persona del genere, ma questa come una statua è sul palco, ma e esce questo suono mostruoso, ma entro il sole è mostro, e con i wow. Grandi. Ma erano grandi, ma era grande anche il tuo gruppo, mica sugli U. E eri grandi te che suonavi e anche scrivi i pezzi. Lo dici tu. Grazie. No, ma sul serio, non la vedo veramente in questo senso. Il fatto di aver successo, voilà, diciamo chiaramente, aver successo, essere conosciuto, certo, è molto molto gratificante per una persona, e la ricompensa, la ricompensa. Dell'artista e il tuo lavoro, e quando vedi che c'è una risposta della gente, che l'emozione che tu cerchi da trasmettere agli altri, perché quello per me fare musica è il mio modo di comunicare. Stasera parlo, nel solito sono uno piuttosto, non sono uno che parlo molto nella vita in generale, perché il mio modo, il primo modo è il mio vero modo di esprimermi e di comunicare con gli altri, e attraverso la musica. E quando hai davanti il pubblico che sente il feeling che trasporti, che dai, che sensazione provi? tutto quello che, voilà, che trasmette tu, che ti ritorna a 10.000 volte più forte. E io quando suono, quando sono davanti al pubblico, non tocco terra, sono a 27 metri, capisci? È sospeso, insomma. In sospeso, è una sensazione indescrittibile, ma è una eccezionale, e mi sento veramente, veramente, veramente bene su questo pianeta quando sono sul palco, quando suono. E con la gente. A proposito di pianeta, dopo un po' di tempo, dopo 20 anni, hai deciso di incidere un disco, A Perfect World, questo mondo perfetto. Un disco in cui racchiude sì le tue convinzioni dell'epoca, però le hai sviluppate, le hai messe in musica odiernamente, cioè adesso praticamente. Le tue evoluzioni musicali, hai allargato gli orizzonti, i tuoi intendimenti. Come mai è nato questo disco dopo molti anni? Allora, prima non ho deciso di fare un album, è nato questo album poco a poco, lentamente. Nel senso che mi sono venuti delle canzoni, ho scritto dei testi, era una riflessione sulla mia percezione, la mia visione del mondo di oggi, esatto, tutto sì. Quel che accade nel bene e nel male e i rapporti umani, certo. Questi sono i temi più o meno di A Perfect World, e poi voilà, canzone dopo canzone mi veniva così, e quando avevo una canzone diceva un'altra idea veniva, ok, faccio, e dopo un certo tempo mi sono accorto che avevo qualche pezzi che avevano una certa coerenza per me, che esprimavano quello veramente chi sono e come sono oggi, e poi ho detto magari c'è qualcosa, c'è della materia per fare un album che assomiglia a un album. Okay. Voilà, per fare un po', sì, sì, ho un po' corto. Poi sì. Ci sono stati incontri anche, cioè Fede, il solito, è stato sempre accanto di me, mi ha anche dato dell'ispirazione e anche della motivazione per andare avanti. Bene, la ringrazio anche per quello, colgo l'occasione per ringraziarla. Voilà, e poi abbiamo sentito parlare fra internet che in Italia c'era una cover band, sì, una tribute band, certo, che si chiama la Universal Band, vero, UB, voilà, che propongono lo spettacolo dei Rockets, sì, come era una volta l'epoca, costumi eccetera, senza capelli, i laser e i botti. Siete stati i primi all'epoca a fare queste robe, assolutamente i primi in assoluto, questi fumi nessun altro li aveva fatti. Beh, così no, penso, esatto, così no, così no, direi non siamo stati i primi nel mondo a usare effetti speciali o fumi, come dice per esempio, ma come l'abbiamo pensato noi, l'abbiamo tutti questi effetti, fumi, botti, fuochi d'artifici, laser, eccetera, erano in un contesto ben preciso, non era per caso o per fare scena, l'idea del concetto e l'idea del spettacolo, della musica e dello spettacolo, perché tutti e due erano legatissimi, era di creare un universo, un mondo diverso, di fare sognare come un film, capisci? Come, certo, come hanno fatto Spielberg o George Lucas all'epoca, anche hanno fatto dei film per far sognare la gente, e tutto questo era in un contesto, come si dice, onirico. Ah, ho capito. Onirico. Sì, onirico, eh? Onirico, ah, esatto. Voilà, onirico. E quindi è partito dal discorso. Beh, adesso apriamo una finestra e parliamo del tuo disco. Abbiamo scelto la traccia numero 5, è vero Michele? La traccia numero 5. Bene. La sentiamo prima e poi la spieghiamo il contenuto e la sviluppiamo. Va bene, Gerard? Cosa dici? Ok. Ok, very well. Let's go. Rock Wave. L'onda del rock. What has become of you? What do you you remember. Do you remember? Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, diretta rockwave.altervista.org. Stasera una grandissima occasione, un grande avvenimento. Abbiamo Little davanti al video che poi suonerà con un chitarrista. Il tuo ospite, qual è il chitarrista? Come si chiama? Si chiama Gennaro Splenito. Splenito. E voilà, parlevo di questo cover band in Italia. Esattamente. E, voilà, e dunque, siamo andati con amici e anche con il batterista Alan Grotzinger, sì, Rockets. E il chitarrista Guy Maratra, che lui era anche faceva parte dei fondatori dei Rockets, che esatto, suonava con Crystal. Esatto. Prima con noi e con le nostre compagne siamo andati a vedere loro che suonavano a Savona. Sei rimasto folgorato? Beh, quasi. come dico spesso, era la prima volta che vedevo un concerto dei Rockets. e no, sul serio, erano anche bravissimi e tutto quello che facevano era, il mimetismo era molto comunque è stato strano come effetto. Si erano proprio immediati della parte, erano sì, completamente loro. Sì, sì. Poi voilà, ci siamo incontrati con i ragazzi e dunque Gena era il chitarrista e c'era il tastierista anche, che si chiama Andrea Maiocchi, che anche lui ha collaborato con Gena sull'album, che ha fatto qualche parte di tastiere, qualche arrangiamenti su qualche pezzi, e Gena ha fatto tutte le chitarre che si sentono sull'album. E questo incontro, voilà, è nato un rapporto, voilà, di tra musicisti, che andava un po' al di là del solo dello scambio, insomma, di idee. Voilà, c'era, come si dice, voilà, c'era un buon feeling. Esatto, quello è importante. Voilà, dunque sono venuti a casa mia, e all'epoca stavo lavorando ancora sui demos che facevo a casa. E come lavoravi a casa sui demos? Che idee, da dove partivano le idee? Ah, sulla chitarra, come facevi? Dipende, non ho regole. Un pezzo può nascere da una linea melodica, d'un riff, d'un tema che sviluppo, poi partire da un testo, qualcosa che ho voglia di esprimere o che ho dentro di che me, senti. Che deve uscire. Ok, perfetto, chiarissimo. Sì, così. Dunque ho fatto sentire queste demo a loro e qualcosa che non avevo fatto prima, a parte due o tre amici veramente intimi. E voilà, è nata così una collaborazione, direi, che mi hanno detto, e ho pensato, io tenevo assolutamente usare e utilizzare strumenti veri, certo, con musicisti veri, e voilà, è nata una collaborazione. Poi abbiamo lavorato assieme per le demo e hanno suonato anche sull'album, voilà, i pezzi, le parti live, e voilà, fra misto su quasi tutti i pezzi è un misto. Quello era l'idea che avevo per il colore generale dell'album. Ho capito. Miscolare l'uso dell'elettronica, del computer, eccetera, che è un mezzo favoloso. Sì. Vabbè, e con strumenti suonati nuovi, veri. Batteria vera, chitarra vera, acoustic, electric, pianoforte. Certo. Pianoforte ci tenevo molto anche. E voilà, questo missaggio, sì, direi, ho missato e ho preparato tutte le tracce, le programmazioni, diciamo, sul computer, pensando a aggiungere gli strumenti. Abbiamo lavorato molto su quello per lasciare lo spazio per gli strumenti veri, e non volevo che l'elettronica troppo invadente. Ecco, questo, volevo arrivare a questo, giustamente a microfono spento abbiamo parlato, tu hai plasmato l'elettronica, però non invasiva, a tuo, cioè l'hai usata nel senso buono del termine, gli strumenti dovevano essere veri, l'elettronica è fondamentale, però non è la parte più importante, ci sono anche le altre. No, sono delle sfumature. Delle sfumature, esattamente. Degli effetti, delle piccole cose... che danno un colore particolare. Ecco, danno un colore. Mi piace molto, mi sono divertito molto anche a fare questo lavoro, perché è un lavoro di ricerca e di sperimentazione anche per me, nel senso di mi sono come un bambino che scopre un giocattolo nuovo, che cerca di capire come è fatto, capisci, lo spacca anche per vedere quello che c'è dentro, e poi voilà, poi le cose sono le se stesse praticamente, lui è bravissimo, quindi tutto è venuto naturalmente, direi, niente francamente, veramente niente stato come direi premeditato o calcolato, è tutto venuto naturalmente. Le canzoni, il modo di trattare di ogni canzone al suo ambiente. Il suo ambiente, esattamente. I musicisti, voilà, che sono venuti, la gente attorno di me che è venuto, che è entrato nel mio piccolo mondo e hanno capito la direzione che volevi portare, che volevo seguire, chiaramente. Mi hanno seguito benissimo. Al 100% e tutto è venuto semplicemente così, con tempo. Certo, con tempo, un po' di pazienza, però le pazienza cose... ce l'avevo sempre, ho imparato anche molto essere paziente. È anche una filosofia... io non sono uno che faccio le cose in fretta, e soprattutto questi ultimi anni. Perché magari ho maturato, ma ho cambiato anche su quello. Ero magari un poco più agitato, non sono sicuro, ma un poco più agitato quando ero più giovane. Poi ho fuggito a Parigi. Sei andato lontano da Parigi. E l'agitazione, lo speed e lo stress della città, e ho trovato un villaggio meraviglioso, magico, in Alta Provenza, e dove la vita è a un ritmo più umano. Esattamente, rispetto alla città. È il ritmo della natura e la natura umana. E quello per me mi ha portato una certa forma di serenità, lontano dallo stress, dallo stress del mondo moderno. Certo. Anche quello ne parlo, anche sono, fa parte anche delle cose che evoco, che di che parlo, testi dell'album. Dell'album. Si parla anche di quello. Certo. Diretta a rockway.altervista.org, ringraziamo il nostro staff, Michele Tosoni in regia, Agostino che ha seguito le fotografie, Roberto Valli le telecamere, e Alberto Prisco che è il nostro direttore artistico, e ringraziamo anche, salutiamo la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che partecipano sempre alla trasmissione. Sentiamo un altro pezzo adesso, Gerard. Hai scelto la traccia numero 8. La sentiamo e poi la spieghiamo come questa, ok? Oui, volentieri. Oui, very well. Rock Wave, l'onda del rock. when you go to a world, to think of a perfect world. We are dreaming of a perfect world. The perfect world. For every boy and girl. We don't need any virtual world. To think of a perfect world. A perfect world. We are dreaming of a perfect world for every boy and girl. We don't need any virtual world to think of a perfect world. Blu Radio, SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Riportiamo il titolo del pezzo. A Perfect World. Perfetto, che è la title track. Una volta si diceva così. Si dice ancora. È la title è track. È la title track. Si, esatto. Si dice così. Poi quella fine, quella voce, quelle voci a cappella è molto interessante. Come mai hai avuto questa idea? Ah. Beh, a me è sempre piaciuto il conto. Perfetto, sì, l'avevi detto prima. Ho iniziato così. Certo. E il mio primo amore. E ho sempre amato il gospel, i negro spirituals. E volevo evocare o mettere un tocco un po' in questo spirito. Alla fine della canzone. Hai fatto bene, perché all'inizio non è proprio così, l'inizio è pompato nel senso positivo del termine, c'è questa batteria che dà un certo senso. Voilà, era bellissimo, voilà, come si dice? Sfumare. Tutta la musica e lasciare solo le voci con i clapping hands. Certo. E voilà, poteva durare per me 2 ore così. Potevi fare una jam session praticamente, finiva più. Ma voilà, vieni da una passione, un amore del canto, del coro e soprattutto del gospel e del negro spiritual. Cioè, nel tuo DNA c'è sempre questo. Scusa? Nel tuo DNA c'è sempre il discorso del gospel, dello spiritual. Nel mio? Del DNA. Ah, ok. ho parlato un po' troppo velocemente, devi perdonare. No, non capisco. Oui. Oui. Cioè, esiste, insomma, è fondamentale. Mm-hmm. E il blues c'è nel tuo DNA? Beh, il blues, sì. Sì, bien sûr, le blues, c'est aussi, e anche la musica, scusami, ho parlato francese. Non importa, l'abbiamo capito. Dico, cambio lingua. sì, il blues... E l'ispirazione di tutto quello che dopo è diventato quello che abbiamo chiamato il rock, certo, nel senso largo, viene dal blues, le radici vengono dal blues, secondo me, ma anche secondo me, oui, penso che è ovvio, e mi ricordo i primi pezzi che sentivo tipo di John Mayer, sì, certo, Blues Breaker, esatto, dove hanno suonato Eric Clapton, no. quasi tutti i musicisti e chitarristi famosi inglesi, certo, che loro si ispiravano del blues americano a piene mani, assolutamente, e mi ha sempre fatto vibrare la corda sensibile, non so come si dice così in italiano. Chiarissimo, si è capito subito. Voilà, mi ha sempre emozionato sentire suonare il blues, poi i primi bluesmen originali americani, certo, certo, che hanno creato questa musica, è fondamentale il blues, l'evoluzione nella storia della musica, certamente, è fondamentale. Tornando a questo a Perfect World, questa title track, lo sviluppo, c'è anche l'elettronica, sì, però è in chiave diversa secondo me in questo pezzo. ritorniamo al discorso di plasmare il discorso. Voilà, beh, già inizia con la batteria. Esattamente. C'è l'entrata, questa entrata bella di batteria. Non pesante, però sostenuta, possiamo dire questo. Sì, è un po'... Non è funky, non no. È... No, è... Boh. No, è una batteria vista da te, sentita da te, sviluppata da te. Sì, beh, chiaramente non la suoni te, però... No, l'ha suonato il fratello di Gennaro. Ecco, benissimo. Si chiama Armando. E come qualche altre tracce sul disco ha suonato lui. E voilà, ha dato questa energia. Esatto. E il ruolo, si dice così, il roulement, il beat, il sì. Movimento. Il movimento, pezzo, il movimento. E tutto funziona attorno di questo movimento e questa batteria. E... Ma è stato bello, interessante. Voglio chiederti questo. Questo è la title track. L'idea della batteria inserita in questo momento, in questa dimensione, è partita subito, hai avuto subito quell'idea là? Oppure l'avete sviluppata assieme? Beh, è stata sviluppata assieme con i musicisti, con Armando, specialmente per la batteria. Sui demos era una programmata, sì. Una programmazione, ma era ovvio per rendere il pezzo, dare al pezzo la sua giusta dimensione, direi, era chiaro che ci voleva quello, batteria, certo. Vera. La programmazione è un'altra cosa, cioè la batteria vera è una... Totalmente diversa. Totalmente diversa, cioè, non c'è anima, non c'è feeling. Per me la programmazione, secondo me, a gusto mio, anche programmazione, specialmente per le batterie, è una cosa molto, molto delicata, difficile. Funziona bene se il ritmo è molto semplice, sì. Un po' anche metronomico, un po' robotico, un po' la Charlie Watts dei Rolling Stones, magari. Allora si può funzionare, mm-hmm. Può funzionare bene, ma su altri pezzi dove c'è un feeling che chiedi lo strumento suonato e il musicista che suona, che ti dai la vita al pezzo, veramente. Chiarissimo, hai spiegato benissimo l'effetto della batteria, il perché la batteria è stata inserita in quel momento e in quella dimensione. Suoniamo, cosa dite? Siamo pronti? Sì? Ok. Allez, facciamo. Beh, torniamo un po' indietro nel passato, è un pezzo che ho sempre amato e che ho suonato... con i Rockets anche si chiama One More Mission. Astronaut is my job, always in the air. This is what I care for after you get there. There's no other way to get myself together. Each and every single day I'm feeling better. I'm a crazy person, I don't really care. One more mission. My ship is in prison, wandering in the air. Don't know which dimension to get there. The lonely endless days since I left my base. Will I find the passage back, or will I erase? I'm a lonely person, I don't really care. One more mission. No hope, I'm afraid. I can't be saved. No peace in my mind till I find what is behind. One more mission. one more mission, one more mission, one more mission. E posso dirti, Lido, sembra una ballata alla Johnny Cash. Oh. Cosa dici? Ok. Lo trovo meraviglioso. Johnny Cash, oui. Hai fatto bellissima. Merci. Molto, molto bella, molto intimista, molto... Ti prende immediatamente queste due chitarre che si intersecano, che dondano, che danzano, e tu, questa bella voce che hai te, e metti un pezzo storico degli Rockets, però fatto in quella, nella tua dimensione, dimensione di adesso, 2010. Sì, ma quasi tutte le canzoni, quando facevo una canzone, anche all'epoca del rock, ci erano per forza a un certo punto certi imperativi da rispettare nel trattamento dei pezzi. È un lavoro che, di gruppo con un gruppo, è una direzione ben precisa, ben particolare. Ma la canzone, quando mi viene, mi viene, io la penso sempre con l'acustica, con le voci, e deve, la canzone deve vivere così, funzionare così per me. Se funziona così, può funzionare qualsiasi modo, il trattamento, puoi farla in qualsiasi, anche in reggae funziona, e più rock and roll funziona, non lo so, jazz funziona, la melodia per me è essenziale. Essenziale, difatti, chiaramente. Finché non ho una melodia che colpisce, a me, che senti, che mi dà qualcosa, che mi parla anche, e che mi fa cantare, per me non ho una canzone. Pezzi si può fare tanti, con un riff, con una non lo so, non ci sono regole, ma per me la melodia è essenziale. Parto da una melodia con un tema e dopo si sviluppa. Certo, lo sviluppi, come lo puoi sviluppare un tema simile adesso, in questo momento? Non lo so, non ho idea, non mi vieni così di colpo, no. Però il discorso scheletrico della melodia poi si sviluppa, cioè ci metti di pezzi, momenti giusti per poi allargare e sviluppare il discorso praticamente. È un respiro. Un respiro. E secondo anche magari il tuo stato del momento, cioè, come stato ti d'animo. Senti sul stato d'animo. Esatto. Può essere anche totalmente diverso. Certo. Magari se la canto domani, la canterò con un altro feel. Un altro modo di porsi. Voilà. Chiaramente, momento dopo momento, questo è importante. Adesso hai scelto un altro pezzo famoso, sempre dai Rockets. Spieghiamo un momento, che questo era un pezzo dei Kennedy all'inizio. Oui. Dopo voi, i Rockets l'hanno rimesso, l'ha rifatto, l'ha riproposto a loro versione, però era un pezzo dei Kennedy, un gruppo storico americano di blues. Sì, sì, sì, che... A me amavo, mi piaceva molto Candy, e questo pezzo l'abbiamo fatto, voilà, al mondo nostro all'epoca, e abbiamo cercato, pensato come si può fare, perché è sempre delicato toccare un pezzo che ha fatto altri, e che è un lavoro... È un omaggio. Sì, un omaggio, ma certo. Può anche essere un disastro. Capito. Esatto, non può piacere, può essere un disastro. Può essere un disastro, puoi rovinare anche la canzone. E abbiamo cercato un po', e il batterista Alan Grozinger, che è con Fabrice, mi sembra, sì, all'epoca, hanno trovato questa sequenza di con il famoso minimo, e che fa e questo che fa tutta la trama del pezzo, che dà il lato moderno, elettronico, e il suono dei Rockets anche. E che influenza ebbe il produttore su questo pezzo? ha un'influenza abbastanza importante, direi. Nel senso positivo o negativo? Nel senso positivo, in questo caso. In questo caso si parla. In questo caso nel senso positivo, veramente. Voilà. Poi c'è stata l'idea di aggiungere violini, sì, esatto. Fiati, per dare anche un lato un po' sinfonico, direi, con la... già questo contrasto fra suoni di sintetizzati e suoni caldi di strumenti acustici. Una grande idea questa. E il produttore ha avuto una grande parte nell'elaborazione, le idee, il trattamento, come fare il pezzo all'arrivo. Però l'input è partito da voi? L'input è partito da tutti noi. All'epoca le idee fusaient. Le idee fra di noi... Era una jam session di idee, praticamente. E con Claude Lemoine, il produttore all'epoca, le idee... c'erano 50 idee al giorno e il più difficile era non di trovare idee, ma di scegliere quale mantenere e quale... Certo, quelle da scartare, praticamente. Voilà, assolutamente sì. E... ma sino, voilà... Sentiamo. I'm so tired of going out on the road again, on the road again. Well, I'm so tired of crying out on the road again, on the road again. Now the first time I travel out in the rain and snow, in the rain and snow. Mama let me quit, I was quite young, when I was quite young. And oh dear, mama let me quit, I was quite young, when I was quite young. She said, Lord have mercy, on my wicked son. On the road again, on the road again, on the road again. On the road, I'm on the road, I'm on the road again. I'm on the road, I'm on the road, I'm on the road again. I'm on the road, road, road, road, road, road, road again. I'm on the road again. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Bravissimi, decisamente bravi, grande atmosfera. Lito, abbiamo una persona che vorrebbe salutarti adesso al telefono. Oh. Pronto? Allo? Allo? Oui. Salut Lito, come va? Ça va? Très bien. Et toi? Bah moi, ouais, ça va très très bien aussi. Il faut que tu viennes en Italie faire des interviews pour savoir, pour pouvoir se parler. Fabrice. Exact. Oh, waouh, d'accord. Je cherchais à qui est cette, je me disais, je connais cette voix. Ah ouais. Comment... Ça va bien ? Ça va très très bien, je te remercie. Ouais. Tu es en Italie pour combien de temps ? Oh, je suis là pour quelques jours, tu sais, je fais des allers-retours express ces derniers temps. Mmh. Et donc, je repars après-demain. Ah, d'accord. Déjà, ouais. Tu vois, c'est très, très... C'est des allers-retours comme ça. Et toi, que fais-tu ? Où en es-tu ? Bah, moi, je suis toujours à Caux, moi. Oui ? Je suis toujours à Caux. De temps en temps, je vais 4-5 fois par an, je vais voir ma mère près de chez toi, en plus. C'est vrai ? Bah, elle habite à Reillanne, hein, près de Manosque. Ah oui, c'est vrai, exact. Je ne me souvenais plus de ça. Je me souviens que tu me l'avais dit il y a longtemps. Ah ouais. Ah. Et puis voilà, d'ailleurs, le temps et le climat est beaucoup mieux là-bas. C'est sûr que c'est pas le même qu'ici. Hein. Ah, putain, disons, ici. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Hein. Non, non. Abbiamo il tastierista Fabrice Quagliotto. Eh oui. Lui. Fabrice. Eh oui. Fabrice. Come stai? Bene? Sì, bene. Te? Bene, bene, grazie. Stasera abbiamo Lito qua che sta facendo una cosa meravigliosa, ha fatto sentire quel vecchio pezzo di Clean Edit rivissuto, rivisitato, ritrasformato. Io ho sentito prima, infatti suonavo insieme a lui prima, ero col piano. Ah, bello, bello. Davvero? Si poteva fare live a distanza. E beh, tu vois, on peut jouer à distance. Bah ouais, c'est super. D'ailleurs, j'entendais le truc, j'avais le piano à côté, j'étais là, ouais. Ah, si pour faire. On the road again. Bei momenti. Eh ben, quelle surprise. Bah oui, hein. Non, il m'avait averti sur Facebook il y a deux jours qu'il y avait une interview de Little. Oui, oui, c'était annoncé, ouais. Appelle-moi, alors, donc c'est super. Bah écoute. Adesso lui vive a Como, mi pare. Tu vivi a Como, vero? Sì, sì, abito a Como, esatto. Esattamente. Eri tastierista dei Rockets. Esatto. Esattamente, esatto. All'epoca quando c'era anche lui, anche Little, grande tastierista. Era importante il discorso della tastiera nei Rockets, Fabris? Ma importante, non è che la tastiera era importante, era importante tutto il suono globalmente, perché era un amalgamo di chitarra, di basso, di tastiera, batteria, e tutto sti suoni ha fatto un sound dei Rockets, infatti. Una mia curiosità personale, i famosi bassi a stella, esistono ancora il basso a stella? Il basso a stella? Ah, c'era la chitarra. La chitarra a stella. La chitarra a stella. Oui, tutti, anche basso e altre chitarre con le forme un po' speciali, fatte a posto, faceva parte anche del tableau visuel. Sì, diciamo, esattamente, del modo di porsi, vero? Voilà, i primi che abbiamo usato sono notamente questa famosa chitarra a stelle, certo, che usava Alain Maratrat, che era chitarrista, è stata fatta a posto da due fratelli luthier. Luthier. Merci Fabrice. Et ouais, mais tu vis en Italie, toi, alors c'est normal. Bah, là, c'est, oui. C'est de la triche. Normal, ouais. C'est de la triche. Ouais, okay. Français, ouais. Et sono i fratelli Giacobacci, che erano veramente persone anche favolose e bravissimi, bravissimi artigiani, con una vera passione per la musica e fare gli strumenti. E si sono divertiti molto a creare con noi, a sviluppare queste chitarre. Però per la cronaca, la chitarra è stata rubata a Taranto. Vero, vero. Durante un concerto. È stata rubata. È stata più ritrovata. Questo è vero. No. Ouais, ouais. Così. Qualcuno ce l'hai per forza. Sì, sicuro. Ma c'era un grande feeling fra di voi, mi diceva Lito, all'epoca. Era una cosa bella, è stata una cosa veramente super, un'esperienza unica e irrepetibile, credo. Vero, sono concordo. Merci. Poi in Italia, un'altra vostra seconda patria, in Italia eravate amatissimi, decisamente. Sì. Avete fatto un famoso live anche in Italia solamente. Un album live, sì. Esattamente. L'album live, sì. Esattamente. Bien sûr. Sì, sì. Ma esatto. è bella un album live, sì, con... Ah, sì, un buon souvenir, le live. Sì. Sì. Oui. Avec le camion mobile. Avec le mobile, ouais. Ouais. Exact. Le mobile tedesco aussi, mi ricordo. Ouais, hein? Ouais, exact. Belle carte. Quelle mémoire. Oh, j'ai triché un peu, j'ai regardé un peu les sites internet ces dernières années. Ouais. Qui font un peu l'historique, la storia, sai, su internet c'è la storia. Certo, certo. Sì, sì, ho letto. Fanno la storia dei Rockets con tutti, voilà, sono, comunque, se qualcuno ha bisogno di un'informazione sui Rockets, non devono parlare né con Little, né con me, con nessuno, devo parlare con Ernesto e Marcello delle Rockets. Sanno tutto. Ecco. Vero. È una roba pazzesca. Sono delle enciclopedie viventi, praticamente. Sì, sì, sì, veramente. Enciclopedie viventi, le ho già scritto su un disco, che è una cosa. Sanno quanti fari abbiamo utilizzato nel 79, quanti cavi, sanno tutto. Incredibile. Sì, sì, sì. È stata una bella esperienza, chiaramente, decisamente. Sì, sì, eh. Sì, sì, sì. Fare determinati arrangiamenti all'epoca non era mica facile, Little. Era difficile fare delle idee all'epoca, lanciare certe modo di porsi, era difficile, era complicato, era un modo assolutamente diverso, nuovo al 100%. Sì, sì, sì, beh, era veramente... I Rockets come gruppo, come complesso, era veramente un laboratorio di ricerca. Esattamente. Eravamo sempre alla ricerca di suoni diversi, nuovi, strani, qualsiasi, e abbiamo avuto la fortuna anche di lavorare soprattutto per i primi album con l'ingegnere del suono della Decca a Parigi, del grande studio Decca, dove c'era Claude Achalet, si chiama. Claude Achalet, ouais. È entrato all'epoca, è difficilissimo perché tutti i grandi artisti che fanno varietà, sai, tipo Claude François, sì, eccetera, certo. Lui ha lavorato con questa gente, un campo, voilà, è caduto, noi siamo arrivati, ma si può fare questo? Oui, oui, abbiamo anche noi tutti con le mani sulle attrezzature, sul mix, eccetera, e abbiamo fatto fare delle cose, entrare in suono e nella parte uscire da un'altra per fare un reginastro che gira così in book per fare delle echi particolari, perché voilà, è tutto un gioco di ricerca, e anche con i synth, voilà, e questo è stato favoloso, sono arrivati i synth monofonico prima, poi polifonico, e c'era tutto da creare, non era come oggi dove basta premere il computer, premere un pulsante, esatto. e il suono che chiedi, che vuoi. All'epoca non era così. Ma quanto più bello era creare così? È più bello, molto più bello, perché è veramente sperimentale, e escono dei suoni inaspettati, o magari cerchi un tipo di suono e ti arriva un altro, perché torni un pulsante, un bottone, non so, e subito, non so, fai qua qua, che fai blau, eccetera, e poi ci divertiamo come bambini, con di nuovo parlo di bambini, perché eravamo come bambini, sempre era veramente ludico. Sì, ho capito, sì. Ludico, certo, era ludico, sì, molto, esatto. Ludico, e magari quello che faceva all'arrivo anche la particolarità del suono, del stile. Esatto, dello stile, decisamente. Fabrice, eravamo degli space operai. Yes. Ecco, esattamente. Yes. Adesso tutti, da voi molta gente poi ha cominciato a fare questo genere, se mi è consentito il termine genere, questo modo di prendere la musica. Ma avete iniziato voi, questo è positivo. Fabrice, adesso cosa fai? Cosa ti occupi musicalmente parlando? Ma io sono 4 anni quasi, vedi, sentivo nell'intervista di Little che non ha fretta, nemmeno io, è il quarto anno che sto fine, che ho ormai 4 anni che sto lavorando su questo album che uscirà, penso, ormai quest'anno. Bene. E poi, beh, basta. E basta, beh, è già positivo questo. Sì, sì, mi diverto molto. Okay. A me hanno ha preso magari quasi 5 anni io per farlo. Eh beh, ma sono 3 a 4, non lo sapevo. Era tutto pronto 2 anni fa, poi ci ho ripensato, non mi piace questo, non mi piace questo. E tutto da rifare, tutti gli arrangiamenti da rifare, cambiamento di cantante, tutto da rifare. Però adesso mi piace. Ah, e questo è il quasi, più importante. Quasi. Il più importante è quello che sei soddisfatto di quel che fa. Esatto. Quitte à tout jeter, à tout recommencer. Mais... J'ai tout jeté. Ouais, c'est le cas. Eh ben, bravo. Tout était fait. Et puis j'ai dit non, ça va pas. Et on refait. Eh ben, tu as eu raison, je pense. On verra. Enfin, de toute façon, ouais. La chose importante, déjà, c'est comme tu as dit, satisfait. Puis après, bien sûr. Du point de vue commercial, on verra bien, mais enfin. Un'altra storia, quello. Di un'altra cosa. Parlavi? Dimmi. No, volevo scusarmi per la gente che non capisce il francese, che chiacchieriamo, ma... Parlavi dell'aspetto commerciale. Oui, bah oui, quel che diceva Fabrice. Fabrice. Appena, voilà, è quello che... Il più importante è che stai soddisfatto di quel che fa, del tuo lavoro. Certo. Per dire, e chiaramente... E il lato commerciale, sapere se quel... Disco. Quel che tu fai può essere commerciale o no, e per me è molto molto secondario. È seconda battuta, lontano. Io non ho mai pensato, quando ho lavorato sui pezzi dell'album, a fare un pezzo commerciale. Certo, dici? Certo. O cercare a tutti i costi di avere il pezzo che va a fare un hit, che va andare nei parade, eccetera. Si deve andare nei parade, vuol dire che ha qualcosa che tu hai messo tutto di te dentro, e se devi toccare la gente così. No? Hai toccato le corde giuste della gente, così praticamente. Sono d'accordo, sì, è vero così. Grazie Fabrice. Doria. Beh, Fabrice, grazie. A bientôt, j'espère. Ok. Allez. Bonne soirée. Ciao, continuazione a tua. Ciao, grazie Fabrice. Ciao. Abbiamo sentito il tastierista dei Rockets, quindi Fabrice Quagliotti. È stata una bella sorpresa, Lito. Oui, una grande sorpresa. Non lo sapevi. Comunque, dai. È tutta, grazie al nostro gancio che è lì. No, non sei. Sei stato il nostro gancio. Beh, non importa. La sorpresa è arrivata lo stesso. Comunque. Importa. Ok, sono le 23:12, abbiamo ancora quasi tre quarti d'ora, bellissimo, da suonare, da sentire, da sviluppare il discorso di questo disco. Good. Cosa facciamo? Facciamo un altro pezzo live o poi sentiamo un pezzo dal disco? Suoniamo. Gennaro, hai voglia di suonare? No. No, allora non... No. Via. Ok, beh... Rock Wave, l'onda del rock. Oui, cioè, avevo voglia di farvi sentire e di fare la canzone che è il single track dell'album che è Everybody. E voilà, faccio così per curiosità una versione così acustica per vedere come nasce, come la canzone, quando è scritta, è pronta a lavorare sulla canzone per gli arrangiamenti, eccetera. Dunque facciamo un aperçu di Everybody, e mi piacerebbe molto, se è possibile, fare sentire alla gente come all'arrivo sul disco, quando è stata elaborata. Certo. Everybody. Okay. Everybody needs a helping hand. No time for losers, no time for friends. Everybody needs a helping hand. Everybody wants the number one. No time for losers, no time for fun. Yeah, everybody can be number one. Because everybody is like anybody. Yeah, everybody feels like anybody. Everybody's living in a cage, wasting a lifetime, scared to break free. Everybody's living in a cage. And I say, everybody. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, adesso la sentiamo nella versione del disco Everybody. Vediamo la differenza. Tu volevi giustamente far vedere le differenze. Cioè, da un pezzo acustico che nasce così. Anche ho cambiato un po' il modo di cantare, anche le parole. Ho fatto metà yaourt. Come si dice, se prima che hai le parole vere, spesso fai provini con non inglese vero, ma e voilà, ho fatto anche un po' così, voilà, per veramente come se fossi a casa e cerco a fare la canzone per la prima volta. Esattamente, voilà. Cioè, beh, l'idea di Everybody è nata così. Per caso è nata, avevi già un'idea che piccola piccola, un input? No, volevo già il titolo, sì, Everybody, vuol dire che è una canzone che tocca tutti. Tutti, esattamente. Nel senso che si tratta di pace. Sì, è esatto. Un messaggio di pace, d'amore e di fraternità per me, Everybody. E ho cercato di dire, far passare questo messaggio con parole le più semplici possibile. Possiamo dire che questo sia un concept album, sei d'accordo? Un concept, un filo conduttore. Concetto? Un filo conduttore, secondo te? Io non l'ho passato così, ma il concetto all'arrivo si può dire che tutti i fili possono essere collegati. In concept album, perché la trama, anche se è a 360 sì, gradi, certo. Le ambienti, le diverse, i pezzi diversi, eccetera. Ma oui. Io ho sempre un po' paura, sai, perché quando si dice un concept album, hanno fatto un concept album e una cosa... ti fa un po' paura. Sì, un po' pesante, dici. Ma nel senso positivo, sì. Penso che si può dire sì. Si può dire sì, sono d'accordo. Perché in concetto, cioè, non è che sono pezzi così. No, no, sì, sono pezzi. E messi in esatto. fila così. Così. Una volta no, si usava. Questo è stato... Una volta che avevo i pezzi, ho pensato anche alla scaletta dell'album, che i pezzi devono... portare a certe emozioni, certi momenti, c'è anche un pezzo strumentale, Deep Breath che arriva a un certo momento, eccetera. Tutto questo è da un album che spero e penso, secondo me, è comunque coerente. Voilà. Sì, certamente. Coerente perché anche sviluppa dei concetti che tu in tempo che non incidevi hai sviluppato, hai concretizzato poi nei 10 pezzi dell'album praticamente. Sì. Nasce sì. tutto da questo, insomma. Ok, sì. Sentiamolo Everybody adesso. Allora. Ok? Ok. L'onda del rock. Ok, ci siamo, 23:23, bello, 23:23, bellissimo, di questo mercoledì. Citiamo i musicisti, cosa dite? Che hanno partecipato all'album. Sono tanti, ma non sono tanti, ma sono importanti e fondamentali. Sì, sono tanti perché comunque essendoci una certa varietà di... un filo conduttore, ma allo stesso tempo una varietà di stili nell'album. Sono stati chiamati diversi musicisti in base anche un po' più o meno a trovare il musicista giusto che avesse lo stile adatto al brano. Al momento di Little, che è almeno, esatto, lo stile che vuole imporre qualità, portare avanti, ecco. Non imporre, ho detto. Per dire, quando è arrivata We're Not Alone ci voleva un pianoforte come si deve, o è arrivata Francesca Pesci, che è una bravissima pianista con cui ho già lavorato in passato, e quindi... c'è stata lei. Le tastiere, abbiamo parlato prima di Andrea Maiocchi, che ha fatto alcune parti tastiere. Disco Sky. Sky. E le altre tastiere ha suonato Little, quindi per dire sono tre tastieristi. E poi abbiamo avuto la batteria Armando Splenito, che conosco da 32 anni. Ah, sono, tantissimo. Sono mio fratello. Mio fratello, chiaramente. E mentre altri brani, alcuni brani, sono stati suonati da un altro batterista, che invece è Gianluca Gatti, e suo fratello Stefano Gatti ha suonato il basso. Storia di fratelli. Storia di fratelli, sì, fratelli. E qualche chitarra aggiuntiva è stata fatta da Luca Lanza in fase di registrazione finale. Abbiamo avuto una corista che si chiama Rossella Volta, che ha fatto la voce, la voce in Legion of Aliens. Sì, sì. E la produzione è Federica Perrino, che ha fatto un paio di parti di sintetizzatori, giusto? Okay. Dobbiamo citarla, esatto. È importante. E dunque direi che ci siamo. Sì. La produzione artistica è tua, Lito? Beh, sì, abbiamo dimenticato qualcuno, puoi sempre chiamare la radio. Sì, infatti. Certo. C'ero anch'io. C'ero anch'io. Ah, vero, scusa. No, ma è stato bello, poi molto sempre emozionante quando vedi il tuo bambino, sì, che è curato con le persone che, voilà, portano il loro feeling, il loro contributo, e il contributo che e aiutano il tuo pezzo a crescere. Esatto. E questo è molto bello, grazie a tutti voi. È stato bello. È stata una bella... Grazie a te. È stata però una cosa... Yes, grazie a me. Possiamo dire, non so se siete d'accordo, una specie di jam session nel senso positivo del termine. Cioè gente che... No, nel senso negativo. Cioè colori e suoni, umori, in un costrutto positivo, secondo me, non negativo. Cioè tanti input che tu hai sistemato, hai messo dentro, con i mod dei musicisti, hai fatto un bel disco, un disco... completo, con tutte le diverse facce della tua musica. Mm-hmm. Sì, possiamo, sì, dire questo? Sì, sì, quello ci tenevo, da avere anche tutte delle atmosfere diverse, e anche tutto quello che mi piace nella musica che ascolto da quando sono piccolo e fino adesso, qualsiasi genere, dal classico al rap di oggi o... Quindi non ha esclusioni assolutamente. Fa jazz, sì. Fa le influenze jazz, blues, certo. Eccetera, rock, musica bianca, musica nera, musica indiana, qualsiasi, musica della cordigliera di Zonda. Sì, capito. Quando mi tocca, è musica, non ci sono frontiere, non ci sono barriere, e io sempre pensato così, e anche questo è il discorso di Perfect World. Sì. E poi voilà, e tutta questa equipe ha lavorato al Mulino a Parma, che è il sì. posto dove la produzione di Sara Ferrari, della Sfema, lo ecco. suo studio, e voilà, è stato anche un incontro positivo, nel senso che grazie anche a quello questo album è nato. È nato. Ha vu le jour. Sì, ha visto la luce, sì, giusto, giusto. Ha visto la luce. Voilà, è stato un lavoro d'équipe anche, voilà. Sono uno solitaire, molto solitaire, e posso chiudermi a casa per fare la mia musica, a questo momento voilà, sono su un altro pianeta anche, e ho bisogno di quello, di trovarmi da solo per lasciare uscire tutto quello che ho dentro, e anche certe cose che non ho voglia di mostrare. Sì. Alle altre è una cosa molto intima, ma dopo, una volta che esco da me, hai bisogno. Ho voglia di condividere, certo, con altre persone. Certamente. Ho bisogno di quello anche. Poi da solo... Da solo siamo più forti uniti, certo. Che da solo sei più debole. Certamente. E Perfect World è proprio... Comunque io sono così. Ma è Perfect World è proprio l'unione di tanta gente. Partono da te chiaramente, ma poi tante altre persone ti hanno dato una mano, hanno sviluppato un progetto che tu hai creato. Beh, questo è, voilà, questo è il mio Perfect World. Voilà, perfetto. In un mondo che non è perfetto. Certo, sicuramente no. E siamo lontano, ma voilà, questo creare anche, voilà, une bulle, che è come una bolla, une bulle, sì, una bolla, voilà, sì. E dove solo certe persone possono entrare dentro. Dopo, una volta che abbiamo il disco, dopo, quando esce, dopo, la musica non è che è una cosa che ti appartiene. Devi dare agli altri, devi donarla, praticamente. E a tutti. E a tutti, giusto, giusto. E voilà, quando mi fa sempre, anche se non è la prima volta, ma mi spavento sempre quando sento il mio pezzo, per esempio, che va in radio, così, come oggi, sì. Perché so che sono io che l'ho fatto, ma lo sento, lo percepisce e lo ascolto come se stato fosse, come musica. Certo, capito. Come se non l'avevo fatto io. Sì, sì, sì. E voilà, non so se... Sì, sì, è chiaro, chiaro, chiaro, capito. È chiaro. Sì, è così che lo vedo, e mi fa sempre strano. Ma voilà, la gente, dal momento che la canzone va fuori e a disposizione della gente, a quelli che piace, si arriva a trasmettere un'emozione o creare qualcosa che la persona di positiva nelle persone, allora ha senso. Certo, e ha senso ancora una volta suonare? Cosa suoniamo di Toll adesso? Ah, ha senso suonare, sì, allora cosa suoniamo? A Pesanteur magari, no? Tu devi, magari ascoltiamo, sì, se è possibile, sentiamo un'altra traccia. Che traccia hai scelto? Eh? Dell'album. Beh, non ci sono segreti, dai, siamo fra di noi. Gennaro, devi velocemente fare un piccolo coso sulla chitarra. E poi dopo facciamo Appesanteur, sì, okay. Che è un pezzo in francese e un cover anche dell'epoca dei Rockets. Che era una canzone scritta da un gruppo francese che si chiamava King Set, e il cantante era uno che si chiama Michel Jonas, che è stato molto molto conosciuto, un grande cantautore francese. Michel Jonas, voilà. Dunque si si può sì, sentire sentiamo le tracce del disco, hein? Che We're Not Alone. Ti ricordi il numero della traccia? No. La traccia è 9. 9, ok, sentiamo. No, numero 9. Ok, allora sentiamo questa. È bella, bella, interessante. Abbiamo scelto questa mentre il tuo chitarrista sistema le corde della chitarra, tutto dal vivo, assolutamente. Voilà, dal vivo. Voilà. Facciamo. Benissimo. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Questo piano che finisce. Bello, il piano che finisce, che termina il pezzo. Volutamente Little. Questo piano. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. È stata un'idea giusta, ah, finire sì, così. Sì, sì, sì. Ci tenevo e... voilà, e al pianoforte, voilà, per me, je n'ai qu'un regret. Au solo, ne... mi avrebbe piaciuto, di suonare, di essere pianista, suonare il pianoforte. Per me, ho parlato del basso. Sì, del basso. Era il mio strumento collé, attaccato al cuore. Ma sino, sino è come un fantasma. Mi avrebbe piaciuto di essere pianista. Ma io suono, ma sai come si dice in francese con le gants de boxe? Con le guanti di boxe, no? Sì, sì, ho capito. Ho sempre toccato un po' il pianoforte, le tastiere, eccetera, ma i synth, suonare i synth è una cosa. Suonare il pianoforte è un'altra cosa. È un'altra cosa, deve essere pianista. E aver fatto veramente studiato il conservatorio praticamente. Oui. Cioè, non è semplice. È talmente completo, per me è il più completo. Sì, guarda, gli strumenti. Tutti gli strumenti, è il più completo, si può fare tutto con un pianoforte. È magnifico, melodico, armonico, percussivo. Voilà. E poi voilà, io sono appassionato anche dei grandi pianisti classici. Ho capito. Cioè, dunque questa partita di pianoforte, sì, per We Not Alone, ci tenevo molto, e anche questa piccola fine è stata pensata, io la volevo così e l'ha suonato così. Sta, sì, geniale quando ha un'idea in testa, senti qualcosa e trovi la persona che te lo fa come tu, come l'avrai fatto tu, se era capace di farlo, e se il top, certo, il massimo. Benissimo, adesso suoniamo, visto che adesso abbiamo predisposto la chitarra come doveva essere predisposta, io non lo sapevo, mi hanno spiegato come, e adesso suoniamo. Cosa suoni, Little? Allora, dicevamo, dunque, è un pezzo che si chiama... chiama Pesanteur, dunque in francese, uno dei rarissimi pezzi che ho cantato all'epoca dei Rockets. In francese. E voilà, una storia, un incontro come un colpo di fulmine tra un umanoide e un alien. Ah, benissimo. Tipo. Ecco, ok. Ok? Ok. Ok, à Pesanteur. Acier trempé, mon cœur blindé, et tant d'épreuves sans qu'il se meure. De n'importe quel discours, de n'importe quel parcours. il fait plus 100. Hôtel, me mettre haute pression au manomètre. Non, non. Amour, toujours, toujours amour, amour discours, amour parcours, amour toujours, toujours amour, amour discours, amour parcours. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, molto sofferta Lito questa versione. Bella sofferta. La sentivi molto, soffro, un bel pathos. Soffro molto. Soffro molto, oui. Vero. No, per me la prima volta veramente che faccio così solo chitarra e voce, e nel solito dietro c'è boom, sai, un ecco, suono della Madonna che ti porta su, ma porti su anche questo suono. E poi una canzone anche, voilà, come dicevo, incontro, voilà, questo tipo incontro, storia d'amore, sì. Ma d'amore impossibile anche, certo, voilà, certo. Dunque, Lito, citiamo il gruppo che ti segue, che ti dà una mano, adesso questa idea che si sta concretizzando. Sì, ma voilà, abbiamo iniziato qualche tempo fa a provare per preparare concerti, certo, live, dal vivo, che non vedo l'ora e sono molto impaziente e molto eccitato anche all'idea di suonare. E per musicisti fondamentali, certo, voilà. E dunque abbiamo trovato i musicisti, già Armando e Gennaro, che hanno partecipato, che già sono già sul disco. Poi abbiamo trovato un bassista che si chiama Emiliano Bozzi, un tastierista che si chiama Stefano Vicario. Vaccari. Oh, pardon, scusami, Steph. Vaccari. E niente, voilà. È un bel muro di suono. Poi ci sono io. Chiaramente. Ogni tanto faccio queste cose. Ogni tanto. No, voilà, e voilà, beh. C'è un buon spirito e anche interessante vedere anche come i pezzi, come sono adesso sull'album, come possono uscire quando sono suonati veramente dal vivo. È ancora un'altra storia, un'altra avventura. Assolutamente. Voilà. Un'altra storia, un'altra avventura. Voilà, donc, spero che, penso, spero che prossimamente, direi, saremo pronti ad affrontare la gente. Quello è importante. Ma non sarà un suono elettrico Lito, oppure no, secondo te? Dal vivo? Dal vivo, sì. C'è anche un lui po', dice di sì. Anche un poco più elettrico. Un poco più. Ma sì, anche dei tastierista, voilà, usa anche lui le synth, eccetera. Ci sono anche i suoni, ritrovi dei colori che ci sono nel disco, ma voilà, con magari un lato un poco più leggermente rock, c'è cioè un po' più Voilà. Più teso, più più movimentato, ecco, sì. Possiamo dire questo? Sì, sì, sì, ma ci saranno anche dei momenti un po' più calmi, anche dei clima, sai, un po' sì, certo. come a me piace, come a me è sempre piaciuto e mi piace sempre. Farei sentire questo bellissimo pezzo anche nei concerti che farei dal vivo. Pardon? Ah, questo, sì, questo lo farai, scusami, anche questo. Non c'è problema, lo farei anche questo. Sicuramente oui. Sicuramente oui. Penso facendolo così mi dai ancora più voglia di fare una versione così unplugged. Cioè, ma io l'ho trovata strepitosa questa versione, proprio acustica, forte. Ho già in testa ho già pensato di fare un momento, un piccolo momento unplugged, o qualche pezzi unplugged fra il concerto, certo, dal vivo, e a presentò sicuramente lo farò, ma sì. Si vede, c'è, ripeto, c'è più, molto pathos. Sviluppato, sì, che come l'abbiamo fatto appena adesso, più sviluppato, con magari a un certo punto entra la musica dietro con la band e... Esatto, con la band che dava il tocco. Sentiamo un altro, voilà, pezzo dell'album adesso, Little, cosa dici? Oui, volentieri. Hai scelto la traccia numero 3 che si chiama... Ah, allora, la traccia numero 3 si chiama How. How. La spieghiamo dopo, la sentiamo prima. Cosa la sentiamo. Dici? Ok, la sentiamo, la sentiamo. Volentieri. Ok. Okay. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Yeah. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Lito, parliamo un momento della nascita di questo pezzo, come l'hai sviluppato? How? How, sì. Oui. Beh, è difficile per me particolarmente di parlare di questo pezzo, perché è sicuramente il pezzo del disco dove sono andato a cercare il più profondo, più profondo di me, di te perché volevo esprimere la difficoltà di essere la dureté, sì, la dureté di questo mondo. Dico, come facciamo per, come fare per continuare a avere la voglia di andare avanti e continuare a vivere quando c'è più voglia. Certo, quindi hai scavato. Non è una canzone autobiografica, ma penso a certe persone che hanno questa difficoltà e che capisco benissimo. Perché ce l'ho un po', anche come non sono l'unico, quando ha magari una sensibilità, uno lo so, non arrivi a inserirti nel mondo come la gente, certo. La maggioranza della gente, e quando sei escluso anche del mondo. È una cosa bruttissima, difficilissima, dunque quello che volevo esprimere in questa canzone. Vorrei chiederti un'altra cosa: se uno volesse acquistare il tuo disco, come può fare? Va nel sito, acquista nel sito per trovare il disco. Sì, c'è un distributore in Italia che è Audio Globe. Perfetto. Dunque si può andare sul sito di Audio Globe, lo si può prenotare là e si può ordinarlo, eccetera eccetera. C'è anche la lista su Audio Globe dei negozi in Italia che fanno la distribuzione del disco. Del disco, chiaramente. So che si trovi anche nelle Fnac. Certo, ti viene. Sì, ok. Non c'è per quelli, tutti non hanno. Tutta la gente non ha la possibilità anche di usare o di ordinare su internet. Certo, certo, ho capito. Ci sono di più in più e diffuso, ma pensiamo noi che siamo un po' privilegiati, che oggi come oggi tutto il mondo ha accesso a internet, certo, e certo. Non è il caso. Eh sì, questo è vero. Ok. Dunque, se non lo trovi nel tuo negozio, chiedi al tuo... Si può ordinare nel negozio dicendo che è distribuito da Audio Globe, semplicemente. Certamente, adesso sentiamo il pezzo strumentale, la traccia numero 7, e poi concludiamo come abbiamo deciso di concludere. Ok, Lido? D'accordo. Perfetto. Sì, sentiamo questo pezzo, un pezzo strumentale. Come mai hai inserito un pezzo strumentale, Lido? Ah, come mai? Non so, mi è venuto così, poi... penso che un momento di rilasso. Io non avevo voglia di sentire mia voce a questo momento. ho capito. Allora è così, e voilà, ça repose les oreilles, riposa le orecchie, certo, un certo. Po', e no, poi scherzi a parte, ma quello che ho detto non è un scherzo anche. Voilà, un respiro, come dice il titolo, certo, Deep certo. Breath, è un grande respiro. Poi si può è fantasmagorico, certo. Si può, io pensavo a delle immagini, pensavo potrebbe essere una musica di film. Perfetto. Capisci? Ho capito. Voilà, si può immaginare sopra tante cose. Okay. Senza Ok. Senza essere disturbato dal conto, da un testo, eccetera. Certo. Fantasia, voilà. Ok, lo sentiamo adesso, Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. these mornings, the sun blinds the earth with a perfect timing. We come the invaders, waiting for the right time. Fly by, wasting on the laughter. I'm on standby. Can be tomorrow, maybe today. Oh, it won't be too long now. In the sky, we'll fly. Legion of the aliens is going to show. Ok, ok, sì, sono stato io, ho voluto cambiare pezzo e invece della traccia numero 7 abbiamo deciso di mettere sulla traccia numero 10. Però è importante, una cosa importante adesso, Lita, devi fare una cosa importante adesso. Oui, absolument, voilà. Volevo parlare un po' in francese perché certo. so che in Francia c'è certa gente che segue in streaming la trasmissione e anche altre persone, ma soprattutto... voilà, je voulais vous faire un grand bonjour à tous, à toi Ben, à Benjamin Tavaron qui a réalisé le graphisme de la pochette et du livret de Perfect World, à Fred, je sais que tu m'écoutes aussi, et puis à tous les autres, je vous aime très fort et on se retrouve bientôt en France. Voilà, gros bisous. Cioè, praticamente hai fatto dei saluti in francese, praticamente, e hai salutato le persone che ti stanno ascoltando via internet in Francia. Sì. È una cosa molto bella, molto positiva. Io non so come ringraziarti queste due ore, perché abbiamo suonato due ore praticamente, dalle 22 alle 24. Che precisione. Sì, circa. sono 24 e qualche sì. Secondo. È stato meraviglioso. Quanto ti potremmo rivedere qua, su questa stanza, fra qua? Non si sa mai, qualche altra volta. Ah, sarà comunque un grande piacere, è stato un piacere passare questi momenti in questo ambiente con te, Maurizio, grazie. Grazie a te e grazie a Gennaro, nostro chitarrista. Gennaro, grazie a voi. Grazie a tutto il mondo, grazie a me. Grazie a tutto il nostro staff e grazie a Federica. Grazie a Federica, eccetera, voilà. Grazie a Antonella che è qua, Antonella, che è qua anche con noi, e tutti, voilà, e spero di tornare presto, volentieri, comunque grande piacere. Grazie a te, è stato meraviglioso. Gerard, bellissimo album, Perfect World, dobbiamo ripeterlo, è Perfect World, che si trova con la distribuzione di Audio Globe. Ci sentiremo un'altra volta, sempre su questi studi, non si sa mai, cosa dici? Sì. Esattamente. Ok. Ok, buonanotte a tutti e grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Dai colore alle tue frequenze.